Senti tu, questa notte sono triste, vieni qui. Non so come ti chiami, ma somigli a lei, lei che era bella come te. Dammi il calore della sua mano, abbiamo un'ora sola, forse l'ultima. Dammi l'illusione dell'amore, tanto io lo so che non sei lei. Stringimi al tuo cuore più che puoi, perché piangi? Anche tu hai un dolore dentro l'anima. Stai pensando che tuo figlio ti ha lasciato. Vedrai che presto tornerà. Amami e non pensare a niente. Dammi il calore della sua mano, abbiamo un'ora sola, forse l'ultima. Dammi l'illusione dell'amore, tanto io lo so che non sei lei. Dammi l'illusione che non ho. Perché piangi? Anche tu hai un dolore dentro l'anima. Stai pensando che tuo figlio ti ha lasciato. Vedrai che presto tornerà. Amami e non pensare a niente. E non pensare a niente.